ti piace. Già ti piace. Ah, non ti piace. No. Babbo, sì. Non ti piace. Allora non ti piace. Sì. E babbo ti piace. E perché ti piace? Ti piace. Beh, non ti piace. Ti piace, quindi. Ti piace. Ma ti piace. Già ti piace. Già ti piace. Chi è che prende il pastiglione prima di salire sopra il palco a farle un sì? Poi ti dice Sava che ne bette show. Ci mancherebbe, ma se sembri un cadavere non regge. Ci mancava solo questa nell'hip hop. Tanto il resto andava a rotoli da sé. Tutti in bagno a far la fila, si tira la cocaina, poi si frista un'altra rima fino a domattina. In verso il circo perché siete dei pagliacci. Fino a poco tempo fa, facendo gli impegnati, si demonizzava tutto, e ora da un estremo all'altro. Non fanno, si fanno, e che cosa cazzo si fanno? Cada cosa che li crepe su Kerbedu. Ogni merda, ogni trend è movimento. Si è dimenticato tutto e molti neanche lo sapevano. Era logico, ma è triste questo degrado. Ne vedo tanti, gli vinco oltre 10 anni. Ne vedo altri e me ne vincono altrettanti. Ma sono grandi, non si va avanti. Sbrigano sguardi mentre bruciano. Questa non è una buona città per le droghe psichedeliche. Bete bite a barra, babbe o traballa, bae. Mastica, sti cazzi tutti froci. MC, ah sì, si vede sulle mani, tanto ormai anche i cani cagano rime. Bruttini, gettoni finiti, puli stretti dal fondo. Se anche un nano più stronzo fa il magico fungo. Spingono merda e tutti quanti pusher. Primo in palle, motion, palio strisce. Che nuove, pensi da copertone, additivi per trista con l'aggiunta di una bomba. Schizzano via da destra manca. Con tutto quello che in corpo ci credo che non si spompa. Molle caricate, balle scaricate, troppe serate, finite male. Ogni bimbo si disfa che è più grande lo vanta. Ti sei visto, mi ricordo un fantasma. Quasi criticato, non intrallazza la tua vita. Basta rotoli per la tua voglia di vincita. Sono di giullare da patrocinico che si credono invincibili. Poco abili a risolvere cazzate di poco facile. Se non capisci la tua scrittura, semplicemente hai bette fattura. Frattura di rotule o cottura, cerca una cura. Hai sbagliato cultura, ecco la cura. Molla questa cultura.